l'ottava edizione Entroterre Festival sarà domani sabato 15 luglio e da un po' che ne parlo, anche per la possibilità d'ingresso per il concerto di Giovanni Truppi. Sarà a Bertinoro, ai Giardini della Rocca, ovviamente nella splendida cittadina in provincia di Forlì e Cesena, alle ore 21:30. È un contesto veramente molto bello. E comunque, detto ciò, 333-180-9494 e poi quando abbiamo il protagonista qua in diretta telefonica è sempre grande motivo, oltre che di conoscenza, un piacere aver motivo di dialogo. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Ma grazie a te per la levataccia. Gli artisti, insomma, comprensibilmente per certi orari averli già in diretta è un grande onore per il Breakfast Club. Allora, le infinite possibilità per essere finiti. Il calambore per essere finiti. Per essere, e vedi, il calambore fa parte, diciamo, di percorso tra la parola, la scrittura, la narrazione, la musica. Ho ascoltato alcuni brani di composizioni tue, ne sono rimasto affascinato per l'originalità, intanto. E la prima domanda, che poi domanda non è una chiacchierata, ma come hai messo insieme tutti questi ingredienti, Giovanni? Ma in realtà in maniera abbastanza istintiva, seguendo quello che mi interessava e mi sembrava più bello, e poi ovviamente vedendo un po' l'effetto che faceva, quindi quando delle cose ovviamente messe insieme, accostate, non mi tornavano, ne ho rimessa una delle due nel cassetto, quando invece l'effetto che faceva mi intrigava, mi convinceva, sono andato avanti e ho cercato cos'altro aggiungere in caso. Sì, la tua realtà in approccio letterario, invece, visto che il nostro format si occupa anche di questo, dalla musica alla letteratura e viceversa, com'è questo passaggio, com'è questo viaggio nel tuo modo di esprimere l'arte? Ma questo non so dirtelo, perché è il mio modo, quindi per me è molto naturale, non ne saprei immaginare un altro, quindi forse... spero che sia singolare e particolare per chi ne fa l'esperienza, però per me corrisponde a quello che sono io. Ok, è naturale ed è anche molto tuo, certo, e la particolarità che volevo aggiungere ascoltando alcune tue composizioni è quello che prima hai sottolineato, cioè un'originalità che ti contraddistingue. Poi sentiremo un tuo brano che è Scomparire, che a me è piaciuto in particolar modo. Detto questo, invece, cosa ascolteremo al concerto per Entroterre a Bertinoro? Ma è il concerto... questo è il tour legato, sì, all'uscita di Infinite Possibilità per essere finiti, quindi suonerò moltissime delle canzoni di questo disco e ovviamente suoneremo anche alcune delle canzoni dei miei dischi precedenti che fanno parte della mia storia, e ovviamente avendo come baricentro, come filo conduttore il sound del Infinite Possibilità per essere finiti, e quindi questo, ci sarà principalmente canzoni nuove, in più anche delle canzoni del mio repertorio. Mi preme specificare che ho questa voce cavernosa, non perché è la mia voce solita, ma perché ho fatto un concerto stanotte e quindi c'è un tempo fisiologico per riprendersi, ritornare la voce, esatto. Certo, intanto più che altro, insomma, è la conoscenza, il concetto, il contenuto, poi non abbiamo dubbi della ripresa e di quant'altro. Sei molto impegnato, Giovanni? Questo, il mese di luglio è forse il mese dove si concentrano più eventi, sì, in generale in Italia, e io ho un disco appena uscito, quindi sono in tour, quindi questo mese di luglio stai correndo. Fortunatamente un abbastanza impegnativo. Sì, non ho notizia di questo, quindi non ti arrabbiare, però ti chiedo, sei da solo sul palcoscenico a Entroterre? No, okay, non mi arrabbio, ci mancherebbe. sono con una band fantastica, siamo un quartetto, c'è Francesco Bellani alle tastiere e Stefano Tamborrino alla batteria e Giorgio Maria Contemi alle chitarre. Bene. Influenze musicali, certo c'è l'originalità, però tu sei di origine napoletana, no? Se non mi sbaglio, dove sì, l'aspetto musicale è quanto mai eterogeneo e vi sono diversi motivi. Vi è un'ispirazione anche, non mi piace usare la parola modelli perché per carità, però una formazione, tu sei tra l'altro polistrumentista, al piano, alla chitarra e in tutto questo, oltre che alla narrazione e alla scrittura, visto anche la provenienza, l'ispirazione che ti è arrivata, ci puoi dire qualcosa di più, Giovanni? Oramai ho una quarantina d'anni e quindi la musica che ho ascoltato e che ho assorbito come puoi immaginare è tantissima, quindi non saprei da dove cominciare. Mi sono formato ascoltando la scuola cantautorale italiana, ma okay, poi ho studiato jazz, sono cresciuto negli anni 90 e quindi è stato fondamentale il grunge nella mia formazione, ma poi con il tempo mi sono appassionato a tanti generi musicali diversi. Questo disco è molto influenzato per esempio dalla musica elettronica e mi piace molto mettere insieme tante cose diverse e anche mi piace molto cambiare. Sì, e intanto noi aggiungiamo allora che per conoscere tutto ciò per l'ottava edizione di Entroterre Festival, domani sabato 15 luglio 2023 ovviamente, infinite possibilità per essere finiti. Entroterre Festival a Bertinor, tra l'altro ribadisco, a me Bertinor piace tantissimo, al Giardino della Rocca, sarà in concerto circa dalle 21.30, Giovanni Truppi, che io ringrazio tantissimo, ti lascio nel tuo momento di ripresa, insomma, nel momento di recupero per quanto riguarda l'appuntamento di domani, ti auguro una buonissima giornata e mi congedo a te con Scomparire, un tuo brano. Grazie Giovanni. Grazie a te. Ciao. Sono di cristallo, mia sorella dorme poco la notte e con oggi fa 7. I dottori che ha visto e anche oggi ha sperato di avere qualcosa distorto nel corpo, uno almeno che non dica pazza, uno almeno che mi sappia dire questo dolore da dove viene, come si chiama e che vuol dire la vita è una cosa spigolosa. La gente corre dietro qualcosa ed io verrò da te e tu verrai da me, così vediamo se due che s'abbracciano strettissimi a scomparire. sorella un cuore di cristallo e s'arrabbia se non la tratti da grande, ma le hanno detto che chi è grande si fa meno domande, esce il sabato sera e non si confonde. La vita è una cosa spigolosa, la gente corre dietro qualcosa ed io verrò da te e tu verrai da me, così vediamo se due che s'abbracciano strettissimi ce la fanno a scomparire. Comparire Giovanni Truppi, come vi ho detto, poi l'aggiunta di questo contralto, l'eleganza, l'aspetto forbito delle note riportate che ascolteremo alla Rocca di Bertinoro, i Giardini della Rocca, l'ottava edizione di Entroterra Festival, oltre che la possibilità di conoscere la musica di Giovanni Truppi, anche la possibilità di passare una serata in un contesto molto molto bello. A tale proposito, l'ingresso è per voi sabato 15 luglio 21:30, 333-180-9494. Facciamo una cosa, a questo punto mi scrivete solo se volete andarci. Io l'anno scorso, stessa data, più o meno, vidi Camariere, fu una serata. Planata? 8:49 minuti, siamo in brevissima planata. Sapete cos'è la planata, no? Quando al lavoro un po', dai, adesso spaziamo, mettiamo via gli attrezzi, controlliamo un attimo, guardiamo il lavoro svolto. Siamo in planata e poi oltretutto la planata di venerdì è perfetta. Due chiacchiere a riguardo innanzitutto la cena di questa sera. Le iscrizioni sono ancora aperte, potete farlo già dal Breakfast Club, il numero lo conoscete a memoria, 333-180-9494, nel giardino di Villa Paradiso, via Emilia Levante 138, vi aspettiamo alle 20:30 questa sera. E il giovedì al Comini Express, ci tengo a sottolinearlo, addirittura è stato un appuntamento al quale mi sono autoinvitato, mi sono proposto così in maniera anche atipica per quanto riguarda ormai 54 anni, cosa vuoi mai andare a mettere dei dischi, però quando ho ascoltato la direzione artistica di Binario 69. Non ricevo delle telefonate, quindi l'ascoltatrice o l'ascoltatore che sta chiamando, se magari scrive via WhatsApp o SMS, fa cosa gradita. E chiacchierando con la direzione artistica di Binario 69, quando ho detto metto a disposizione una console con i Technics 1200, quindi allora a questo punto, no, perché adesso come DJ ho chiavette oppure questi programmi per mixare, così io con i vinili ho detto allora perché no, ci proviamo, tanto è a Bologna, è in un posto dove il parcheggio si trova in maniera molto agevole, faccio un paio di serate così, dai. E invece la passione, si dice il richiamo della foresta, no? Sentirete poi queste sonorità, anche questa è una raccolta del Mo Cooking, il primo che è uscito dell'Ubiquity, quindi così acid jazz, rare groove e funky soul, bossa, qualche incursione anche tra i classici di queste sonorità, comunque tendenzialmente è acid jazz, rare groove. Al giovedì inizio serata alle ore 19:15, poi la serata è corredata da un concerto, solitamente finora ho visto dei concerti molto interessanti, ieri c'era un combo di ragazzi sudafricani che facevano dell'afrofunk molto molto talentuosi. Grazie al buon cuore di Binario 69 le serate sono sempre state, insomma, così particolarmente interessanti, diciamolo così, e quindi si continuerà. Vediamo se farle continuare, pensate un po', anche in agosto, che di solito sono abbastanza fuori sede, però ciò non toglie che vedremo. Intanto le serate di luglio le facciamo tutte, per quanto riguarda il giovedì con Mini Express, via del Battiferro, dalle 19 vi aspetto. Io vi auguro un buonissimo weekend, vi auguro ovviamente un sabato e domenica dove poter trovare un po' di relax, siamo quasi a fine stagione, alcuni di voi magari già in vacanza, al quale mando un caloroso abbraccio, come rivolgo a voi un cordiale saluto per dare appuntamento a lunedì con il Breakfast Club. Abbiamo svalicato il mese di luglio nella seconda metà, ancora 2 settimane piene di programmazione e quindi non mi resta che congedarmi a voi con un po' di musica, con Escape dei Push, e ritrovarci lunedì mattina con la prima colazione in diretta, il Breakfast Club, puntualissimi alle ore 7. Ciao a tutte, ciao a tutti, un buon ascolto, un buon weekend dal vostro William Piana. Ciao, a lunedì, ciao!